Con Simonetta Grechi del Clorofilla Film Festival, per sapere quali sono i 5 film dell'anno tra quelli usciti in sala che lei preferisce, ben trovata, Simo. Grazie Fede, grazie, grazie a tutti. Raccontiamo un po' la tua annata cinematografica, che ne pensi? Come sta andando avanti il cinema? Noi in quest'ultimo periodo ci siamo imbarcati anche in una nuova avventura, nel senso che stiamo sostenendo l'unica monosala di Grosseto, che è il Cinema Stella, e quindi ci stiamo occupando un po' anche della programmazione. E quindi nell'ultimo periodo abbiamo avuto anche questo onere e onore, diciamo così, proprio come esperienza di gestione. Il pubblico sta rispondendo abbastanza bene, devo dire che il Cinema Stella è un cinema che esiste da 20 anni, che ha resistito all'avvento di due multisala, e quindi i film che proponiamo sono quelli che magari avrebbe comunque scelto il gestore di questo cinema e che hanno incontrato il pubblico che già era affezionato, ma devo dire che si stanno vedendo anche ragazzi molto giovani, soprattutto con alcuni film. Uno di questi è uno dei miei cinque, dove abbiamo visto diversi giovani presenti. Quindi diciamo bene, anche alla luce di questa nuova avventura che speriamo possa continuare. Allora, i cinque, ho scelto solo film italiani, un po' per affetto verso il nostro cinema e un po' perché Clorofilla anche dà spazio al cinema italiano. Il primo che mi viene in mente è Palazzina Laff di Michele Riondino, un film che ho amato subito perché racconta un tema poco conosciuto, perché tutti gli interpreti sono straordinari, dallo stesso Michele Riondino a Elio Germano, ma anche a chi ha ruoli minori come Michele Sinisi o Vanessa Scalera. Un film che forse doveva avere una maggiore possibilità di essere visto, ecco. Poi Misericordia, il film di Emma Dante, che a mio avviso è un concentrato di poesia e amore, recitato anche questo benissimo. Anche questo è un film che poteva avere qualche possibilità in più in sala. Poi una commedia, La guerra del Tiburtino Terzo, perché l'ho trovato divertente e originale, di Luna Gualano. E poi, dunque, un film che non so se può rientrare nei film del 2023, perché in realtà è uscito il 7 dicembre del 2022. Poi, però, ha avuto una vita abbastanza lunga nel 2023, perché il regista lo ha praticamente accompagnato spesso durante le proiezioni, e il film è Orlando di Daniele Vittari, perché racconta due mondi solo apparentemente lontani, e con un Michele Placido particolarmente incisivo. È un film che ho amato molto. L'ultimo film che lascio in fondo, ma non è poi in fondo, è La Chimera di Alice Rohrwacher, ed è questo il film che ha visto come partecipazione molti ragazzi. È un film che abbiamo recuperato al cinema e che ho trovato appassionato e pieno di vita. Quindi questi sono i miei cinque film preferiti dell'anno. Allora Simo, io ti ringrazio, ci vediamo presto e ci sentiamo presto. Un abbraccio e in bocca al lupo. A presto, grazie e viva il lupo!